parte il Festival di Sanremo, adesso non per citare sempre Berlusconi, però c'è questa polemica. Lei si attende il rischio di una satira dissacrante che potrà distruggere ma qualcuno? Guardi, spero di no, però francamente, insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, cioè, non c'è molto da sperare, nel senso che, insomma, vedo tra gli ospiti che Fabio Fazio ha scelto di invitare al Festival di Sanremo dei personaggi francamente molto discutibili. Io per esempio rabbrividisco di fronte all'invito a Carla Bruni, che è un'italiana che si vergogna di essere italiana, nota nel mondo unicamente per aver difeso quell'assassino di Cesare Battisti, e sinceramente non vedo quali siano le perle di saggezza che Carla Bruni, che oltretutto è stonata come una campana, dovrebbe regalarci. Quindi francamente, se questo è il buongiorno, un po' di preoccupazione ce l'ho, però ecco, io penso che poi gli italiani non siano così stupidi come pensa la sinistra, da farsi abbindolare o da farsi dare le indicazioni di voto dal Festival di Sanremo. Ma non dica anche lei che la sinistra pensa che gli italiani siano stupidi in questo, no? Sennò poi... No, ma io però mi dispiace se si pensa di poter occupare, di poter, diciamo, indirizzare la campagna elettorale occupando il Festival di Sanremo, si ha secondo me un'assenza di rispetto nei confronti degli italiani, che non si faranno abbindolare dal festival. Ciò non toglie che la sinistra evidentemente lo pensa, altrimenti non avrebbe bisogno di occupare il festival. Comunque Carla Bruni è la presenza che più la infastidisce, proprio. Sì, decisamente. Decisamente.